Downloaders è un media, quindi significa che, come per la televisione commerciale è possibile vedere dei film, vedendo però anche degli spot durante la trasmissione, Downloaders ha lo stesso modello e quindi è possibile scaricare musica gratuitamente osservando uno spot, un video, un commercial che scorre durante il download del brano stesso. Quindi a fronte di questo spot pubblicitario gli utenti possono scaricare musica gratuitamente e legalmente. Un modello di business molto semplice.